Eccoci qui. Ciao a tutti. Sera. Reduci da pranzi e cene. Bene, bene. Eccoci, l'ultima puntata dell'anno. Ah, non l'ultima puntata, ma no, l'ultima puntata di questo 2016 che sta continuando a mietere le sue vittime. Ah, è vero, 33 anni, sì. Lo salutiamo, un saluto. Anche a lui. Sì, non era messo benissimo ultimamente, mi sembra, però. Sì, no, in effetti. Io lo beccai a Santa Maria Novella, no, è un po' strano. T'ha chiesto qualcosa? Un po' proprio. Anche questa è andata. Va bene. Ma noi continuiamo così. Gesti scaramantici. Scusate. Il coro dell'Armata Rossa. È vero. Track. Ma se anticipassimo il Capodanno, Procdodio, ossia, sì, cioè, facciamo, no, domani. Facciamolo che almeno così, dopodomani, tipo sabato, domenica, siamo già a gennaio 2017, vai, quest'anno si è chiuso con un'altra sfilza di nomi scritti sulle lapidi di marmo, però almeno per il 2016 si è chiuso, capito? Vabbè. Allora, oggi è puntata, non abbiamo letto nulla proprio con notizie così tristi, tristi. È la vita. Siamo comunque all'ottava puntata del Rovescio della Medaglia qui su Radio Wombat e io direi di partire con FM, vero? Sì, allora, siamo PFM. Rimaneva parte della lettera P e partiamo con la PFM. Acronimo di? Premiata Forneria Marconi. Bravo. Grazie. Un cioccolatino. Il più conosciuto tra tutti i gruppi prog e rock della scena italiana. E sono nati proprio come Premiata Forneria Marconi nel 1971. Di un altro gruppo, che erano i Quelli, che conoscerete, per un gruppo beat piuttosto conosciuto, dove ci suonavano Mussi da Premoli e Franz Di Cioccio. C'era anche il Mauro Pagani, che la colonna portante della PFM. Che conoscerete Pugni Chiusi, dei Quelli, cantata da Demetrio Stratos. Sì. Comunque, da questo incontro con appunto Mano, nel 1970 la Premiata Forneria Marconi. Venivano conosciuti all'inizio semplicemente come la Premiata, in maniera confidenziale, e poi più tardi come PFM, che vi faremo sentire questa sera, Impressioni di Settembre, che invece non vi faremo sentire, perché comunque è un pezzo molto conosciuto e quasi, diciamo, scontato per il genere del primo album. Mi confermi tutto? No, perché non io, lo sento. E... No, io confermo tutto. E anche primo album. Non è stata fiducia incondizionata. Perfetto. Comunque. Il primo album, che si chiama Storia di un minuto, vi facciamo sentire La carrozza di Hans. La mandiamo? O volete? Guarda, cerca, corri, lontano, vola. Hans il mercante aspetta lontano. Di Hans. suona un corno da cocchiere, lustra la metula. E questo brano era È festa della... In questi anni ci fu un'intensa attività sia dal vivo che in studio di registrazione e nello stesso anno uscì il secondo album per un amico. Viene quasi tutti i rifacimenti degli album precedenti e soltanto in lingua inglese, e questo album è stato pubblicato dalla Ma. Questo brano è Festa, e il rifacimento in inglese si chiama Celebration, che è appunto all'interno di Photos of Ghosts. E dopo questo album, appunto in inglese, per lanciare negli Stati Uniti, che si chiama Live in the USA. Dopo di questo provarono a fare un altro album in studio che si chiama Chocolate King, appunto per un po' per... Praticamente dopo questo live molto molto stancante, duro, e Pagani si era stancato della vita on the road. Forse sia per proprio nel pratico la vita on the road in tournée, e si è stancato e ha detto basta e ha lasciato. È più lasciato. Sì, Pagani è più da studio, da copertina sulle gambe. Da... Comunque, dopo tutto questo grande successo anche internazionale, nel 1979, da notare che non vi faremo sentire, un doppio album tratto appunto dalla tournée con Fabrizio De André, che si chiama Fabrizio De André. Il prossimo album che vi faremo sentire, appunto un brano tratto da Chocolate King, appunto è il brano omonimo Chocolate Kings, della PFM del 1970. Personale, 75. 75. 75, diciamo anche che è stato un album fatto completamente in inglese. Sì, sì. Diciamo, tra le tante note, no, che ci differenziano, che sì, ci rendono infatti, unici nel nostro programma internazionale, anche negli Stati Uniti, Inghilterra, comunque. Sì, sì. Grazie appunto anche sia alle etichette che spingevano, diciamo, li spingevano nel mercato, che ad avere la possibilità di registrare. Di critica verso le case discografiche, non apriamo nessun dibattito, vero? Riguardo Club 12. No, no, era così, era una sottile critica che... velata, così. Ambrata, sì, no? Come vuole. Quindi, comunque, andiamo con Chocolate Kings, dall'album Chocolate Kings, la premiata Forneria Marconi. When I was born, I came to free us to heal our battle wounds. That mama, the chocolate kings arrived. Back to back, back to back, we are so. Ok, bene, questa è stata la nostra. Chiaramente vi abbiamo risparmiato un po' i classiconi della PFM, perché come ben sapete ci piace sempre trovare lo sconosciuto sia a livello proprio biografico che discografico, e quindi giustamente Prog 16 nella sua infinita eleganza ha scelto dei pezzi non famosi, spero. Meno famosi, per far rientrare tutto in una trasmissione ho preso tre pezzi. Non stare qua fino a domattina, soprattutto se si è fatto. Ho preso tre pezzi a caso, Siamo partiti bene, siamo finiti. No, abbiamo un certo ruolo. Certo, e dobbiamo mantenere anche il posto di lavoro. Soprattutto quello. Ok, allora andiamo avanti con la trasmissione, e siamo arrivati alla... quando torni alla tua postazione Prog 17? Eccomi, ecco, non mi sono mai mosso sinceramente. Ah, non eri te? No. Ok. Quindi la lettera Q e l'apriamo con quella vecchia locale. Roma era quasi, diciamo, potremmo eleggerla quasi all'epicentro della Prog 12. Sì, insieme a Napoli, diamo anche a Napoli, sì. Il giusto riconoscimento a Napoli, che ha sforato. Hanno cominciato, diciamo, la loro attività musicale nel 70, e diciamo hanno cominciato con un'intensa attività live. sottolineiamo anche che è stata una carriera breve, perché hanno fatto solo due album, e quindi il primo, che è del 72 omonimo, e il secondo, che è del 74, che si chiama Il tempo della gioia. E quindi un po' ascolteremo degli estratti sia del primo che del secondo album, e di cui del primo, che io credo che sia anche questo, Prog 12 conferma, io credo che sia anche questo album, quantomeno è stato partorito come tale. Concepito, ecco. Sì, come un un brano unico diviso in vari movimenti. Sì, infatti. E proprio da questo album ho deciso che mixerò, quindi Prog 12 non lo sapeva, lo scopre ora. Ma a me un po' me lo immaginavo. No, perché farò una suite autoprodotta. Certo. Prog 12, ricordati sempre. Comprensiva di tre pezzi. E dobbiamo campare, quindi... Suite autoprodotta, cioè, più che altro notizia, nessuna dritta. Dritta su come contattarci. O come trovarci, ascoltarci. Come trovarci e come ascoltarci sul nostro sito wombat.noblog.org, su twitter.com, per suggerimenti, consigli, qualsiasi cosa, potete contattarci alla nostra posta wombat@insiberia.net. Bene, bene. Allora... come vi ho detto, dal primo album, quella vecchia, prologo, immagini sfocate e dialogo. Loro sono quella vecchia locanda. son queste mura. Luce, ti sto cercando, sto inseguendo. Ok, c'è prog, c'è lo studio, vuole arredare lo studio, vuole, non lo so, vuole, è il Renzo piano che in lui è venuto fuori, e quindi ora a me non si era accorto che io ritornavo in diretta, però questo è proprio il bello, il fascino della diretta. Dio. Ah, la cassa di birra, pensavo. No, quella c'è di già. Infatti. Allora, bene, questa è stata la prima suite, come sempre rigorosamente autoprodotta, di quella vecchia locanda, 2 anni dopo, che è Il tempo della gioia, e praticamente con questo finisce la breve e intensa carriera dei quella vecchia locanda. E manderemo, che devo ancora pezzi che ho deciso di mandarvi, ossia Il tempo della gioia e Un giorno un amico, e del secondo e ultimo album di quella vecchia locanda. Palla di fuoco che cadi nello specchio blu di flesso volare. giorno un amico quella vecchia locanda. Bene, ciao ai vecchia locanda, e una noticina che prima ho dimenticato, e praticamente il... Prego, prego. Dimmi. No, dico, tanti gruppi prog italiani hanno suonato poi in Giappone, hanno avuto successo e continuano ad avere successo in Giappone. È vero, infatti ti stavo dicendo quello, che a quanto pare il prog italiano, in prog italiani, 100% made in Italy, facciamo una tournée in Giappone, facciamo un Made in Japan anche noi. Si viene a fare un fantastico, si mantiene bellissimo, sei fantastico proprio di 17. Quindi che si va. Dopo la tournée facciamo la fame. Andiamo a cacciare le balene. O ci uniamo agli Yakuza o torniamo in Italia, quindi sarebbe bene che ci fate il biglietto di andata e di ritorno, vabbè. Lascio gruppo... un po' di musica di sottofondo? Sì, volentieri. Prima di presentare il prossimo gruppo, volevo fare i consueti saluti e ringraziamenti per i nostri ascoltatori, soprattutto per Stefano, che ci ascolta sempre, nuovo fan di Prog 1 e Prog 2, è Mario Hitler. Ciao Mario! Io ho scoperto da poco che ci ascolta anche lui. Sappiate ragazzi che solo per la vedete a giro casse di birra e ci avete tutto pagato, andate al bar e dice, no, c'è il conto aperto e non c'è problema, ecco. Paghiamo noi e questo è il ringraziamento, no? Sì, se no come no, li cioè, ringraziamo? No, ringraziamo così, facciamo un accanito bevitore di birre. Ah, nota dolè, non ci si trova d'accordo allora, caro Stefano. Vuole, va saputo mantenere il ragazzo. Comunque, andiamo avanti con RRR. RRR, no? RR. Oppure RRR. No, R è capelli, no? Sì. C'è stato anche il musical, sì. R, no? R. R è vero. RR. Ah, ok, sì, è vero. Con la R un po' muta. Va bene, ma non ci appartengono queste cose. Comunque, questo gruppo ha fatto un unico album che si chiama Per un mondo di cristallo. E in particolare è questo di pacco postale tracciato da due nastri, da due cordicine, come proprio i vecchi pacchi postali. Con tanto di francobolli. Tanto di francobolli che raffiguravano i componenti del gruppo, no? Vediamo qui l'album. Invece dentro... Dentro c'è un bellissimo disegno, un po' metafisico. Infatti dentro si sfocia nella classica metafisicità che contraddistingue gli album prog. Senti, prog 12, scusami se ti interrompo, i sodati delle poste che... Può darsi, erano... poste che non so, si ritrovavano con le mani in mano e... No? Facciamo parte del Kral Poste, che organizzava gite... Il loro unico album unisce un tipico suono progressivo all'italiana con chitarra acustica, flauto e tastiere in evidenza, con delle influenze jazz. Il risultato è a tratti discontinuo, però. E stavo leggendo da un esperto di musica prog russa che si chiama Alexei Turidov, è vero. Grande scrittore, di critico. Sì. Esperto di prog, del comunismo perduto, poi invece è stato vittima della democrazia cristiana più spietata e a quel punto dice, mo che faccio? E per caso ha conosciuto per strada, all'epoca c'erano gli Osanni. Ricordiamo il nome, Alexei Turidov, dovete cercare su Wikipedia, su... Netflix, non comunque so. Questo gruppo, una serie pure. Questo gruppo ha avuto una brevissima 73 prima di sciogliersi a causa di alcuni diverbi con la casa discografica che li volevano far partecipare al Festival di Sanremo. Dopo questa cosa sono cominciate le discussioni. Non lo so, perché io durante il periodo del Festival di Sanremo ero sempre a lavorare in campagna, quindi non l'ho mai seguito, capito? No, io ero sulla spiaggia di Sanremo. Quindi non l'ho mai... Non lo so. No. Non ho mai seguito. Cioè, i concerti, gli altri, ma non me lo ricordo più. Viareggio. Sicuramente Viareggio. Al festival di Viareggio ci saranno passati. Ci sono passati quasi tutti i gruppi prog di lì. Vabbè. Comunque, dall'album, però in questo momento non me lo ricordo, Il mondo cade su di me. Tra parentesi su di me. Hai visto, l'avevo sospeso un po'. Il mondo cade su di me. Ecco. Avevo cercato di interpretare una parentesi. Okay. Per un mondo di cristallo.

esisterebbe. Non mi sparare il mio microfono a mille, sfondiamo le orecchie dei nostri fedeli ascoltatori e magari non ci ascoltano più, quindi. No, rimaniamo con toni bassi. E dopo questo gruppo che si chiamavano i 33 Trentini entrarono in Trento. E cioè, con questa cazzata chiudiamo questo capitolo. Fantastico. Ci è piaciuto molto, fantastica battuta delle tue legata al raccomandato che ho ricevuto di ritorno, no? Poi hanno formato i Pacco Celere. E si potrebbe andare avanti. Era il gruppo lì per andare contro la Celere. I Pacco Celere scagliati a bomba contro l'ingiustizia. Finiamola qua, via, se no si rischia di ma i tre tigri contro tre tigri? No. Mi è piaciuta ok. Allora, abbiamo chiuso, come abbiamo detto, con gli RRR, raccomandata con ricevuto di ritorno, e il prossimo gruppo invece che andiamo a presentare, quali sono? Diccelo un po' te, Prognotici. Il messaggio mi è arrivato chiaro. La raccomandata mi è arrivata. Sto aspettando la ricevuta di ritorno. Questa è un'assicurata, cos'era? Vabbè, mi è arrivata diretta in front. Chi è? Dov'è? Sei te l'esperto dei Raminghi? No, Amedeo Minghi. Amedeo Minghi formò Amedeus. Vabbè, non lo so, non sparando ai gruppi che poi quando arriverà il loro turno ti diremo. Lì si riderà per davvero. Va bene, via. Allora, il prossimo gruppo che presentiamo quindi sono i Raminghi. E praticamente sono i Raminghi, sono un gruppo. E quindi presentiamo così, figa di Bergamo. Bergamo Alta o Bergamo? Lo sapevi? Lo sai? No, non li conosco, sinceramente. No. Non lo saprei. Per partito preso Bergamo Alta, anche perché l'ho vista personalmente e mi è piaciuto un sacco Bergamo Alta, quindi un gruppo formatosi a Bergamo Alta intorno agli anni 60, quindi diciamo questo gruppo sono usciti con un unico album nel 72, nonostante avevano già alle spalle diversi anni, però appunto in quella che è stata la scena beat, con però che già si stavano avviando, diciamo, ecco, il grosso della loro carriera è stata appunto più improntata su questa scena. Però noi, da prog autentici, potenziale del gruppo, e abbiamo preso quest'album del 72, che è il lungo cammino dei Raminghi, di cui vi presenteremo due pezzi, che sono La nostra verità e Bello mondo nero e giallo. Li vogliamo? Califfi e tutti i vari corvi, si chiamavano nomi più brevi. Sì. Invece, mentre per i gruppi prog classici, no, erano molto più lunghi e elaborati. Sì, ma mica tanti, via. Su. Sta minacciando con la lama per la. Ormai. No. Però il banco del mutuo soccorso, la premiata Forneria Marconi. Sì, infatti. E raccomandata con ricevuta di ritorno. E poi facciamo un po' la. Giochiamo un po' a che gruppo che abbiamo. L'uovo. L'uovo di Colombo. Ecco, poi. Aspetta, altri gruppi. Il balletto di bronzo, il rovescio della medaglia. Potete trovarci sul sito wombatnoblog.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfee, facebook.com/radio-wombat-firenze, siberia.net. Questa ve l'abbiamo fatta corale. Sì, Paola e Chiara, vai. Allora, dicevamo, dei raminghi, appunto, che diciamo più, prog 12, abbiamo, veramente non me li ricordo, ti dirò, però io spero con l'accento, l'accentaccio bergamasco e... Fia, cantiamo un pezzo. Vabbè, allora, sentiamo un po' ora lo scopriamo. Che cosa ci tirano fuori. Dello raminghito. Raminghi, vi mandiamo la nostra verità e prima ho detto bello, invece buio mondo, nero e giallo. Dentro uno specchio nero ci guardiamo mentre veniamo al mondo da soli, mentre veniamo al mondo. Ed ora tutti ci ritroviamo in questo vuoto che ci accompagna, in un altro vuoto più grande, dove vediamo la verità. Sì, la verità. E parliamo di luci sfumate, di ricordi felici che non contano quando il mondo non crede. Veniamo al mondo, la nostra verità, tremiamo, parliamo. Solo contro noi. Ok, bene. Questi raminghi. Sentite questo suono della chitarra un po' hendrixiano. Righelli, mi piace dirlo in tipo ne so, tipo nel gergo giuridico. Il Serighelli, il 27 novembre del 72 si trovava a suonare la chitarra sul luogo, capito, del delitto in Balint Steff. No, io non li personalmente non li conosco. No, non li conosco. Quindi si vede neanche già, io. Si vede già l'addizione. Non sto dicendo in spagnolo, buon aiuto. Si vede già la questa linea vocale un po' particolare, no? Molto particolare, soprattutto all'inizio del brano. Sì. Non proprio conforme al canto prog, una cosa un po' più originale, almeno questo. È vero, non diamogliela. Sì, noi che siamo stati attenti, l'intercalare figa non c'è stato. No. Quindi non era presente. Promossi, io via. Promossi. Io mi riallaccerei a questo Jimi Hendrix. Sì. Presentando il prossimo gruppo, la dei Pink Floyd e di Jimi Hendrix. A Roma, nel 68. Dai. E loro sono la Reale Accademia di Musica, che è un gruppo romano molto conosciuto a Roma, che singolo, un 45 giri. Che immagino tu hai. Sì, certo. In tasca, lo porto sempre in tasca. Le origini di questo gruppo risalgono invece ad un complesso beat, come tanti, che si chiamavano i Condors, formati nel 1965. E successivamente sono riusciti a incidere un altro 45 giri, che comprendeva una cover degli Iron Butterfly, noto gruppo americano. Ho i miei dubbi. No, sì, Non ci giurerei, però. Vabbè, questo andiamo a vedere, vi faremo sapere prossimamente. E questo 45 giri era prodotto dal leader degli Equipi. Questo gruppo ha suonato più che in studio, ha fatto un unico album, ha suonato in tanti festival importanti, dai primi degli anni 70, come il Festival di Caracalla, Gualdo nel 1970 e il Festival Pop di Viareggio. Ah, due album, scusa. Ci tenevo. No, hai fatto bene, ho fatto una figuraccia. No, sai perché? Perché praticamente, ora poi ti lascio continuare con la tua biografia che ti sei accuratamente cercato e studiato. Perché il secondo album del 74. Ah. Capito? Ecco. Okay, questa mi era sfuggita. Che uscì su 500 copie numerate, per questo. Infatti quindi io ho scelto sia del primo che del secondo album. Ecco. Ah, ecco, perché la scaletta. E quindi il primo album, che sia appunto omonimo, Reale Accademia di Musica, è anche questo prodotto da Maurizio Vandelli. E i brani, diciamo, più riconosciuti dalla critica e conseguentemente da noi, in sequenza. Prima Il Mattino e poi Vertigine. La Reale Accademia della Musica qui su Radio Wombat. La semplicità. ma sai, non puoi. Forse non si è sentito perché quando la musica è alta non si sentono le voci. Questo è il Topolino Topel del secondo album del Reale Accademia di Musica, un pezzo simpatico tratto da un album meno simpatico. Perfetto, salutiamo. A questo punto siamo a fine della nostra puntata, la nostra ultima puntata del 2016. Ci rivediamo, ci risentiamo soprattutto martedì 3 gennaio l'ultima. Con l'ultima puntata, diciamo, tradizionale del rovescio della medaglia. E poi dopo, come vi abbiamo anticipato, ci sarà uno special su Emerson, Lake e Palmer e successivamente su Gli Area. E poi tutto io lo rimanderei da capo, questo simpatico motivetto. Rimandiamolo da capo, il Topolino Topel. Non è facile mandarlo a capo. Saluti Edria. Ah sì? Faccio ovviamente per anch'io per salutare tutti i nostri ascoltatori, visto che non l'ho fatto. E io in particolare non ho neanche... Te hai salutato gli ascoltatori fedeli? Io... Sì, dai, saluta qualcuno a caso. Ciao mamma, ciao babbo. E Giannetto. Giannetto, saluta Giannetto e dedichiamo proprio a Giannetto questo simpatico motivetto. Il Topolino Topel. E ciao a tutti e a martedì.